e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ci risiamo, pronti a partire con un'altra lunga ma molto bella settimana con Cuore e Denari. Io mi sento un po' malata, te lo devo dire. Ho mal di gola, me l'hai attaccato tu. No, te l'ha attaccato tuo marito, perché io sto benissimo. No, perché no, ma sono, è quella dell'altra settimana. Io sto benissimo, quindi, bene, ma io non ce l'avevo la settimana scorsa. Sono malata. No, va bene, adesso no, ti curo scherzando. Io. Ti faccio prendere qualche minuto di pausa perché parto con le notizie di finanza, per cui la rassegna stampa è lunga, i temi di approfondimento lo stesso. Tu di che cosa parli? Allora, noi ci sono delle ottime notizie per i nostri amici che stanno seguendo il nostro progetto, la nostra iniziativa per provare a smettere di fumare, degli aggiornamenti dalla ricerca. E poi, a proposito di malattie, malattie da raffreddamento, parliamo dei nostri bambini. Eccola. Entrano in una, escono in un'altra, sembrano sempre malati. Carmelo sta tirando già un sospiro di sollievo. Ah, pensavo stesse tirando giù qualche parolaccia. No, ha fatto non sollievo, di rassegnazione. E quindi ci occuperemo dei nostri bambini, ma non solo. Esatto, e lo sai che quando stanno male, naturalmente, spesso devono stare a casa anche i genitori, perché non è detto che tutti abbiano la nonna sitter, la babysitter. Certo. E poi oggi è una giornata importante, la giornata dell'epilessia, ne parleremo, perché su questa malattia pesano molti, molti pregiudizi. Tornando appunto alle malattie dei bambini, parleremo invece nella parte di denari dei permessi che i genitori hanno la facoltà di prendersi quando devono stare a casa per prendersi appunto cura dei piccoli con i malanni di stagione. Poi parleremo invece dell'altro grande tema che ha sollevato il presidente dell'INPS la settimana scorsa, gli abusi della legge 104, quelli che possono essere utilizzati per prendersi cura di un malato, un congiunto disabile e quant'altro, però a quanto pare c'è chi ne fa non un uso ma appunto un abuso. Quindi per tutti questi argomenti lancio il nostro numerone, un lancione, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Intanto direi che posso anche raccontarvi come si appresta a partire la settimana di borsa. La settimana in Europa parte bene, speriamo che non cambi idea nel pomeriggio, più 0,48% a Parigi, più 0,51% per il listino di Francoforte, Londra un po' più prudente, più 0,04%, Milano più 0,56%. Sul FTSE MIB abbiamo avuto un rialzo di Tokyo dello 0,41%, quest'oggi è stato diffuso il dato sul prodotto interno lordo del Giappone nell'ultima parte del 2016 che sarebbe stato un po' più debole del previsto, però siccome pare che sia andato bene l'incontro del fine settimana fra il premier Shinzo Abe e Donald Trump, il mercato ha chiuso appunto positivamente dal punto di vista azionario. Ricordiamo che siamo anche reduci da una settimana di record su record, tanto per cambiare, per Wall Street, in un clima di attesa per il super piano di stimolo fiscale da parte appunto della nuova amministrazione Trump. Tornando a Piazza Affari, i titoli che stanno guadagnando di più, poi proveremo a spiegarne anche le ragioni: Unipol più 4,45, Banco BPM più 3,49, Ubibanca più 2,84, Azimut più 2,52, Generali più 2,29%. Qualche dettaglio in più questa mattina ce lo fornisce Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, che salutiamo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, peraltro, zitta zitta, qua ne parliamo forse un po' poco per non alimentare altre preoccupazioni, ma sta serpeggiando di nuovo una crisi greca, perché ci sarebbe un super prestito appunto in scadenza, non sappiamo se il governo greco sia nelle condizioni di poterlo ripagare. Non vorrei che adesso ricominciasse un po' tutto il delirio che avevamo già vissuto un paio di anni fa, Di Lorenzo. Comunque, tra Trump, tra la Marine Le Pen e Atene, ci sono stati tanti elementi che hanno un po' creato nervosismo sul mercato obbligazionario, soprattutto nella seconda parte della scorsa settimana. Oggi si riparte bene dal punto di vista del mercato azionario, ci dia intanto un quadro di partenza, poi andremo a qualche singolo argomento. Sì, mattinata fortunatamente discretamente positiva. Piazza Affari ha sofferto nella prima parte dell'anno proprio il lunedì. Gli ultimi 5 lunedì di questo 2017 sono stati tutti nettamente negativi, hanno generato una perdita del 9%, quindi il fatto che si parta bene già è una buona notizia. Perché si parte bene? I finanziari stanno finalmente dando segnali di risveglio. C'è Unipol SAI, che è il primo dell'istituto in questo momento, che beneficia di una raccomandazione di una banca d'affari. Invece buone notizie per BPM, che venerdì a mercati chiusi ha comunicato dei risultati per la prima volta insieme alla fusione con Banco Popolare, quindi i primi risultati dopo la fusione, che tutto sommato il mercato apprezza, così come apprezza i risultati di UbiBanca. Altra buona notizia, Unicredit, nonostante un aumento di capitale Monster da 13 miliardi, sta reggendo, i diritti sono in questo momento in ottimo rialzo e questa è una buona notizia, vuol dire che tutto sommato c'è una discreta fiducia. Quindi tutti questi elementi, nonostante il BTP adesso faccia fatica, il 2037 è ribasso quasi dell'1%, il nostro indice sembra voler iniziare la settimana con il piede giusto e potrebbe essere un buon viatico anche per il corso della settimana, degli altri giorni. Esatto. Invece il titolo che venerdì ha avuto una vera e propria batosta di borsa, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche stamattina soffre, meno 0,8% di Lorenzo. Sì, i numeri hanno un po' spaventato gli investitori, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. È evidente che ci sono tensioni sul mondo bancario italiano e questo in qualche modo giustifica anche la sottoperformance ormai patologica che sta alimentando il nostro destino in questa prima parte dell'anno. Ricordo, come lei ben ricordava prima, che ci sono i principali mercati, a cominciare dallo scritto sui massimi. Invece noi sostanzialmente stiamo un po' sostanzialmente sui minimi annuali e questo è dovuto al fatto che un indice molto bancarizzato fa fatica a stare su se non c'è il contributo proprio delle banche. Quindi la tensione rimane, io credo che bisogna scavallare questo appuntamento con Unicredit perché è un appuntamento importante, la più grande capitalizzazione, più aumento capitale della storia di Piazza Affari. E superato questo, poi credo che sui bancari si possano aprire dei scenari certamente migliori e più con maggior visibilità. So che non volete sbilanciarvi sull'argomento perché qua un giorno arriva la notizia pronta ad essere smentita il giorno dopo, però intanto alcuni giornali dicono che l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina abbia lavorato duramente negli ultimi giorni per preparare l'offerta appunto su Generali e chissà che qualche notizia non arrivi presto. Intesa San Paolo stamattina segna più 0,19% a Milano, mentre Generali appunto più 2,15%. Agli operatori piace o non piace questa operazione adesso a prescindere dal fatto che si farà o meno? Qual è il vostro auspicio da trader di Lorenzo? Ma io credo che la sorte di Generali è in qualche modo segnata, ci sarà a breve un'operazione straordinaria. Adesso è difficile dire fare scommesse su se sarà Intesa il partner o meno. Io credo che ormai questi consolidamenti sono direi quasi necessari. Generali difficilmente verrà quest'anno con pagina sociale attuale e bisognerà vedere il piano che ha in mente Intesa. L'unica perplessità che ho è che chiedere adesso soldi a un mercato, perché credo che in quel caso sia inevitabile un ulteriore aumento di capitale, non so se è la strategia migliore in questo momento, perché ricordo ci sarà anche Ubi che farà il suo primo aumento di capitale in vista dell'acquisizione delle Bad Bank. E tutti questi aumenti di capitale potrebbero un po' mettere sotto stress il mercato, quindi l'operazione secondo me ci sta, il problema è il timing, cioè trovare il momento giusto per chiedere soldi e per fare l'operazione. E penso che questa sia la criticità che si è affrontata in management. Però è anche vero che chiedere soldi al mercato perché te lo chiedono le autorità di vigilanza, perché te lo chiedono i regolatori o la BCE, è un conto. Fare richieste al mercato per fare delle operazioni straordinarie forse significa che il mercato un po' si rimette in moto, hanno proprio un po' un sapore diverso queste operazioni di questo secondo tipo. Non c'è dubbio, un aumento dilutivo come caso di Unicredit a fronte di perdite del 2016 è molto diverso da un'operazione per crescere. Detto ciò, anche in virtù di quanto sta succedendo, MPS che ricordo a tutt'oggi è congelata, ma prima o poi la situazione andrà sbloccata, a mio modo di vedere una cosa abbastanza grave che il titolo sia ancora fermo e la faccenda sia in freezer sostanzialmente, non è in ogni caso il contesto migliore. Spesso queste operazioni devono anche trovare un momento giusto di mercato, che è un sentiment positivo, che è una certa predisposizione a mettere mano al portafoglio, ma in ogni caso va vista questa operazione. Io non anticiperei il segnale. Quello che si vede oggi è questa differenza di forza relativa, con Generali che sui massimi sfiorando i 15 euro, invece Intesa fa ancora fatica, non riesce a sfiorarsi da 2,15 a un livello abbastanza come dire, complicato da superare. Un piccolo commento sull'andamento del mercato obbligazionario, perché oggi il Tesoro italiano mette in asta BTP su scadenze differenti a 3, 5, 7, 30 anni, sempre con obiettivo di allungare la durata del debito italiano. Queste operazioni appunto arriveranno ad un massimo di 8 miliardi e mezzo complessivamente. Abbiamo delle previsioni da fare su questo, su quali, sulle scadenze più brevi andremo ancora sui minimi per quello che riguarda i tassi, di Lorenzo? Sì, sono diciamo le emissioni su a breve sono secondo me poco significative, soprattutto dell'investitore privato, sono rendimenti troppo risicati per prenderli in considerazione. Ciò che bisogna riscontrare. Dove è finito? Io ormai sono 4 settimane che fa fatica, c'è grande volatilità e secondo me questo è testimone di due elementi. La prima è una minor forza probabilmente del nostro esecutivo a imporsi su diciamo le misure austere in Europa. La seconda, il gran timore che c'è per queste prossime elezioni che ci danno in tutta Europa, l'incubo della Le Pen che prende il potere in Francia, nonostante sia uno scenario poco probabile, ma ricordo che anche Brexit e Trump sarebbe la fine definitiva dell'euro, perché ricordo che nel programma della Le Pen punto numero uno uscita all'euro, punto numero due uscita alla NATO, sarebbe uno scenario abbastanza catastrofico per quanto mi riguarda, e quindi il BTP sta un po' scontando la debolezza diciamo generale dell'Italia, che non riesce a far fronte a questa richiesta di manovre aggiuntive e in qualche modo anche la scarsa visibilità che si ha sul futuro dell'Europa, che condiziona un po' tutti le obbligazioni europee, infatti. Cominciare anche dalla francese. Intanto aspettiamo la pubblicazione che avviene oggi da parte della Commissione Europea delle nuove previsioni economiche, della situazione della zona euro e dei singoli paesi dell'Unione. Di Lorenzo, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona settimana. A lei, buona giornata. Buona giornata. L'euro a 1,0638 sul dollaro, direi che è tempo di sentire il traffico. A tra poco. Cuore e denari. Odio i lunedì. Giornata difficile lunedì, il nostro esperto Pietro Di Lorenzo ha detto subito che i primi 5 lunedì del 2017 sono stati dei giorni neri per Piazza Affari. Aveva questa sindrome del lunedì, che oggi non ha a quanto pare, però si è curata, ha preso, fatto il vaccino. Sai che anche per il cuore il lunedì è un giorno difficile? Guarda, ma da tanti punti di vista. Il lunedì è il giorno in cui solitamente pensiamo di iniziare la dieta, ma è il giorno del mai e il lunedì del poi. O la palestra, sì, esatto. Però c'è un lato positivo del lunedì che viene evidenziato da una ricerca, e noi ci siamo subito tuffati a pesce, perché una ricerca che arriva da San Diego ci dice che è proprio lunedì il giorno migliore per smettere di fumare. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Boffi, buongiorno, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, direttore del Centro Antifumo. Buongiorno dottor Boffi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E noi lo sosteniamo da tempo, non solo lunedì potrebbe essere il giorno migliore per smettere di fumare, ma è il 2017 l'anno in cui prenderemo questa decisione e riusciremo a realizzare un progetto che sicuramente ci farà bene. Lo faremo con l'aiuto del dottor Boffi, anche con l'aiuto della dottoressa Munarini, sulla pagina che abbiamo dedicato a tutti coloro che vogliono provare a smettere di fumare, quindi magari hanno bisogno di un po' di supporto, oppure per chi ce l'ha fatta e quindi vuole condividere questa bella esperienza per in qualche modo aiutare chi è ancora indeciso a fare il grande passo. Dottor Boffi, allora lunedì si prova. Beh sì, devo dire che i nostri dati di questi 15 anni di intervento sui fumatori all'Istituto dei Tumori non è che confermano proprio al 100% questa affermazione dei colleghi californiani. Sì, è vero, lunedì come l'inizio comunque dell'anno, del mese, può essere una scusa, però le date che noi verifichiamo avere più psicologicamente più impatto sono altre, magari le ricorrenze importanti tipo i compleanni, gli anniversari o l'inizio, non so, delle vacanze o la ripresa dal lavoro. Però, insomma, se può servire anche pensare che il lunedì è l'inizio, è un nuovo inizio, perché no? Smettiamo di fumare il lunedì. 800 24 00 24, se anche voi volete raccontarci quando e come e perché siete riusciti a smettere di fumare, o se volete farvi convincere a fare questo passo così importante dal dottor Boffi. Dottor Boffi, noi abbiamo citato questa ricerca, ma vogliamo catturare l'attenzione dei nostri ascoltatori, perché ci sono due studi che, di cui lei ha dato commento sulla nostra pagina, molto interessanti, che riguardano i genitori e il fumo e anche la salute dei bambini, di cui ci occuperemo tra poco. Dottor Boffi, partiamo? Sì. Beh, insomma, partiamo da un dato che forse ho già citato in trasmissione altre volte, cioè che purtroppo gli adolescenti fumano tantissimo in Italia, 37% addirittura dei quindicenni fuma, siamo al primo posto in Europa in questa non invidiabile classifica, però c'è anche il problema del buon esempio che noi genitori dobbiamo cercare di dare ai minori, e quindi questi due studi, uno americano e l'altro europeo dei colleghi epidemiologi svizzeri, ha valutato l'impatto del fatto di avere figli in casa sani o con una patologia respiratoria che è l'asma bronchiale, questo impatto sulla nostra decisione di smettere di fumare. Quello californiano, quello americano in particolare, fatto dai pediatri, ha visto su questi quasi 1400 genitori intervistati a un anno dallo stop fumo che i fattori associati a un aumento di felicità includevano l'aver adottato delle regole per mantenere la casa e l'auto smoke free, cioè senza fumo. Quindi una maggior soddisfazione nell'essere riusciti a smettere di fumare, oltre che una maggior probabilità di successo in chi ha figli in casa, per evitare di sottoporli al fumo passivo, il cosiddetto anche fumo di terza mano, cioè quello che si deposita sui tappeti, sulle tende e sui divani. L'altro studio invece europeo ha studiato l'incidenza, l'aumentata incidenza e la gravità non solo dell'asma infantile legata al fumo passivo, ma anche quanto questo, cioè la diagnosi di asma, influenzi la capacità, il successo del tentativo di stop fumo nei genitori. In 4.000 genitori, quindi non pochi, ebbene è stato visto che la diagnosi di asma del bambino è aumentata in maniera statisticamente significativa la probabilità di una casa senza fumo per il bambino e i suoi genitori e fratelli, per cui la motivazione di non solo dare il buon esempio, ma anche di non danneggiare i nostri figli in casa, può essere sicuramente una buona carta per noi per riuscire una buona volta a dire addio alla sigaretta. Dottor Boffi, allora sottolineiamo ancora l'importanza per i bambini, per tutti noi, ma soprattutto per i bambini, a vivere in degli ambienti liberi dal fumo. Molti genitori fumano per non esporre direttamente i loro bambini. Cosa fanno? Vanno in balcone e poi tornano. Ma dottor Boffi, è un'indagine che avete fatto voi, un po' datata, ma da cui sono partite tante ricerche, dimostra che il fumatore inquina anche dopo aver fumato, anche se fuma nel balcone. Nel momento in cui torna a casa, lo spazio intorno a sé è, tra virgolette, contaminato. Dottor Boffi. Eh sì, è il cosiddetto residual tobacco smoke, fumo passivo residuo, per colpa o merito nostro, a seconda dei punti di vista, ormai in tutto il mondo si chiama così. È stata una scoperta che abbiamo fatto con il nostro gruppo, in particolare il mio collega Giovanni Invernizzi, 10 anni fa, e avevamo dimostrato che per 3 minuti almeno, per 180 secondi dopo che abbiamo spento la sigaretta, continuiamo a esalare particolato, il famigerato PM10, no? Le polveri sottili, col nostro fiato, e quindi inquiniamo ancora la macchina, che è piccola, che è un abitacolo, naturalmente ha una dimensione limitate, o la casa, la camera, certo, la camera e anche l'ufficio, no? Quindi a maggior ragione dove ci sono categorie più a rischio, più sensibili, come le donne incinte, i bambini e soprattutto gli asmatici, ma in generale bisognerebbe cercare di star fuori qualche minuto dopo aver spento la sigaretta, per non determinare che in questi ambienti un'aria insalubre come quasi prima, quando si fumava ancora. Piero ci scrive: ho smesso da 6 anni trovando la grande motivazione nel voler andare in bici in montagna senza arrancare ad ogni pedalata. Ho sfidato me stesso, peccato non averlo fatto prima. Ho 57 anni, ci scrive Piero, chiama da Venezia. Spesso la motivazione ci fa fare il grande passo. Lei ha sottolineato l'aspetto molto interessante della ricerca, che dice che i genitori, di fronte ad una diagnosi di asma dei propri bambini, smettono di fumare. Ecco, io credo che tutti i genitori abbiano una motivazione, che quella di far crescere i bambini sani. Quindi se siamo genitori spegniamo le sigarette e andiamo subito da Simone che ci chiama dalla provincia di Bari. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per la possibilità di intervenire nel programma. Dunque, io chiamo da Bari, come poco fa diceva, ho 43 anni, ho smesso, possiamo essere sicuri di poterlo dire, da un mese, dopo tanti anni, devo dire la verità, sommando i periodi in cui ho fumato e quelli in cui non ho fumato, direi una ventina d'anni circa. Volevo chiedere al professore quali sono le aspettative che posso in questo momento appunto avere in termini di miglioramento funzionale, cardiocircolatorio, respiratorio, che tipo di eventualmente di controlli posso fare per verificare il mio stato di salute polmonare e quindi bronchiale, diciamo dell'apparato respiratorio. Bravo Simone. Ma bravo Simone, che soddisfazione che ci dà. Allora, sì, sembra una telefonata truccata, invece no, è naturale, complimenti. E non è neanche nostro cugino. No, esatto. Mai sentito nominare. No, bravissimo, davvero, intanto per aver smesso di fumare. I benefici della cessazione sono graduali, alcuni sono veramente a breve termine, mi viene in mente la temperatura delle mani, la frequenza cardiaca che migliora già dopo poche ore. Il monossido di carbonio si elimina in 3 giorni, quindi c'è una ripulitura da questo tossico veleno nel sangue e in tutti gli organi, anche nella pelle ad esempio. La guarigione delle ferite migliora nel giro di qualche giorno e poche settimane. L'apparato respiratorio ci mette un po' di più, fino al rischio oncologico e quello cardiovascolare, che sono gli ultimi a essere totalmente eliminati, tanto è vero che anche i programmi di screening, di diagnosi precoce sui fumatori vengono effettuati su persone che fumano ancora, ahimè, oppure che hanno smesso di fumare da meno di 10 anni, perché dopo 10 anni, per loro fortuna, il rischio è considerato ormai troppo basso. C'è una sorta di condono, dai. Esatto, però diciamo che è bello goderseli anche le prime settimane, i primi mesi, soprattutto a livello di attività sportiva, resistenza agli sforzi, oltre che di recupero dell'alito e degli odori, perché queste cose. Perché poi, tra l'altro, domani è San Valentino, dottor Boffi. Che, certo, il bacio migliora già dopo pochi giorni. Ecco, provate. Chiaro. Allora, dottor Boffi, intanto le chiedo se sulla nostra pagina può, l'idea me l'ha suggerita Simone, magari mettere i controlli che si possono fare e che potrebbe fare la persona che decide di smettere di fumare o quella che sta fumando. Questo sì, è importante. Volevo dire, volevo aggiungere solo questo ancora, cioè la spirometria. La prova del respiro è un esame totalmente innocuo, però assolutamente utilissimo anche nelle persone sane o che hanno recentemente smesso di fumare, per capire lo stato di salute. Non sono tossiche come le radiografie o ancora peggio come le TAC, però danno un quadro, una fotografia molto utile dello stato del respiro della persona e quindi indirettamente di tutto il resto del corpo, perché dei due polmoni che funzionano bene consentono un'ossigenazione in tutto il corpo. Insomma, due polmoni meglio di uno. Allora, intanto il dottor Boffi ha pubblicato sulla nostra pagina le ricerche, potete leggerle. Abbiamo Luciano dalla provincia di Bari, se è velocissimo perché fra 30 secondi devo chiudere. Luciano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sarò velocissimo. Allora, io sono un ex fumatore che ha smesso di fumare grazie alla sigaretta elettronica. Ormai è 1 anno e mezzo e ho abbandonato completamente le sigarette normali. Ora volevo chiedere al professore, al di là dei benefici personali che ognuno di noi può aver riscontrato, esistono evidenze scientifiche sul fatto che comunque la sigaretta elettronica faccia, non dico non faccia male, però sicuramente meno male rispetto alla sigaretta normale. Grazie. Allora, questa è la proposta di discussione di Luciano. Dottor Boffi, aprite naturalmente la discussione sulle nostre pagine e poi sicuramente riprenderemo il tema. Grazie, la risposta del dottor Boffi sulla pagina dedicata a questa iniziativa. Grazie al dottor Boffi, GR e di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Sento un formicolio, ho la la palpitazione, l'orecchio fa un ronzio, ho un calo di pressione, il cuore sulla destra, il fegato qui in basso, ho male dappertutto, in pancia come un sasso. Ho una frenesia, mi prende un capogiro, a volte sono insonne o dormo come un ghiro. Allora, nei giorni scorsi Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha rilasciato delle dichiarazioni che, come spesso capita quando parla lui, fanno rumore, hanno fatto di nuovo rumore. Interpellato a margine di un convegno a Roma, ha sostenuto che la reperibilità a casa nei giorni di malattia dovrebbe essere di almeno 7 ore per tutti, precisando che non ha più senso che ci siano differenze fra pubblico e privato. Attualmente, infatti, i dipendenti del settore pubblico devono essere raggiungibili per le visite di controllo dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Invece, per i dipendenti del comparto privato è sufficiente essere reperibili dalle 10 alle 12, dalle 17 alle 19. Non solo, Boeri è tornato anche sul tema della legge 104 che permette 3 giorni di permesso al mese dal lavoro per assistere congiunti in malattia, commentando che in Italia se ne abusa e non è la prima volta che lo sentiamo un commento di questo tipo. Proprio stamattina anche il Sole 24 Ore pubblica l'ultimo bilancio rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle presenze dei dipendenti pubblici, indicando una situazione più articolata di quella tagliata con l'accetta del dibattito pubblico. E allora cosa dice questo rapporto? Che le assenze per malattia nella pubblica amministrazione sono in discesa, mentre crescono in modo rilevante quelle legate ai permessi che la legge 104 del 92 concede appunto per l'assistenza ai familiari disabili. La situazione è parecchio differenziata naturalmente da amministrazione ad amministrazione. Tanto ci è bastato per portare l'argomento a cuore e denari e per rispiegare ai nostri ascoltatori in quali casi si ha il diritto di fruire di questi permessi. Alessandro Taporta, consulente del lavoro, esperto per il Sole 24 Ore, ben ritrovato e buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Come anticipato anche nella prima parte della trasmissione, faremo un punto anche sui permessi che una famiglia si può prendere, mamma e papà, se il bambino sta male, e naturalmente anche in questo caso c'è una situazione molto differenziata a seconda dell'età del bambino. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Già quando Nicoletta ha fatto l'anticipazione del programma, alcuni ascoltatori si sono prenotati per chiarire un po' la loro situazione e adesso li ascolteremo molto volentieri. Ma dottor Taporta, cominciamo subito con questo tema tanto caro a molti italiani, soprattutto a quelli che ne hanno bisogno: i permessi 104, i permessi dal lavoro per l'assistenza dei familiari disabili o malati. La norma di riferimento è proprio la legge quadro sull'handicap, la 104 del 92. Facciamo un punto sui criteri di utilizzo di questi permessi. 3 giorni al mese, di che familiari stiamo parlando? Quanto deve essere stretto il grado di parentela? Allora, iniziamo col dire che questi permessi spettano appunto per dare assistenza a soggetti portatori di handicap. Poi il panorama della 104 è molto diversificato e il regime dei permessi varia a seconda della posizione del richiedente, quindi bisogna andare a valutare caso per caso. Comunque, in linea generale, i familiari che possono avere diritto chi sono? Sono i genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono appunto figli portatori di handicap. C'è poi la categoria dei parenti o affini entro il secondo grado o addirittura con alcune, diciamo, in alcune condizioni entro il terzo grado, quindi che assistono persone con handicap, quindi si va dal secondo al terzo grado con alcune particolarità. Poi, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2016, i permessi sono stati estesi anche ai conviventi di fatto, quindi è una categoria che ha pieno titolo. E poi ci sono anche come diretti destinatari i lavoratori stessi portatori di handicap, quindi vediamo che è un perimetro molto, molto ampio. Sono appunto 3 giorni al mese ed è necessario ovviamente avere una certificazione idonea. Quindi come funziona? Funziona che il grado di disabilità deve essere riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL, il lavoratore deve fare, quindi il lavoratore interessato ad avere questo tipo di permessi per assistere la persona disabile deve presentare una domanda all'INPS che quindi emette un'autorizzazione, e poi questa autorizzazione dell'INPS viene consegnata dal lavoratore al datore di lavoro. A proposito di questa disabilità, Rotaporta, perché noi appunto immaginiamo una persona disabile, magari disabile dalla nascita o magari disabile a seguito, non so, di un incidente, ma mi capita di sentire anche di persone che fruiscono dei permessi riconosciuti dalla legge 104 per assistere per esempio congiunti malati che fanno, non lo so, chemioterapia, che hanno un trattamento sanitario particolarmente impegnativo. Quindi lei, quando parla di disabilità, parla anche di queste situazioni? Sì, sì, diciamo ecco, che è uno stato di handicap, se vogliamo definirlo in termine corretto, quindi è valutato ovviamente dalla commissione medica dell'ASL, quindi si può spaziare, come diceva lei, in diverse casistiche, purché ovviamente ci sia uno stato anche temporaneo di handicap. Infatti l'autorizzazione dell'INPS a poter fruire di questo tipo di permessi per l'assistenza può essere temporanea, ecco, oppure può essere in alcuni casi addirittura illimitata, quindi sulla base della valutazione medica della commissione ASL questi permessi possono essere concessi, diciamo, a tempo indeterminato, oppure sono soggetti a una revisione dello stato invalidante della persona coinvolta e quindi c'è una scadenza, certo, dell'autorizzazione INPS, oltre la quale bisogna poi l'interessato deve rifare l'iter. E quindi è l'INPS che autorizza sia che questa possibilità di fruire di questi permessi sia illimitata che temporanea, ma sono permessi elastici, dicevamo 3 giorni al mese, Rotaporta. Sono elastici nel senso che posso decidere, per esempio, in caso di necessità, di fare 2 giorni questo mese e 4 il mese prossimo, oppure se io non ne fruisco di tutti e 3 li perdo? Allora, cerchiamo di sintetizzare, perché poi anche qui ci sono diverse sfaccettature. Allora, i 3 giorni di permesso mensili possono anche essere utilizzati come 6 mezze giornate nel corso del mese stesso, quindi c'è questo tipo, ecco, di elasticità, e quindi si può godere in questo modo dei permessi. Poi possono anche essere utilizzati ad ore nel corso del mese, quindi è abbastanza flessibile, tenendo conto che comunque il permesso non può essere riconosciuto a più, diciamo, di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona, cioè c'è un concetto che in gergo viene definito di esclusività dell'assistenza, quindi salvo deroghe particolari, c'è qualche casistica che va in deroga a questo principio, un solo lavoratore può assistere quella determinata persona e non è ripartibile, quindi si parla appunto di esclusività, certo, dell'assistenza. Non è che io prendo queste 6 mezze giornate perché un giorno devo portare il bambino all'asilo, un altro perché devo assistere la mamma malata, un altro perché magari, non lo so, ho un'altra necessità. Deve essere tutto ricondotto alla finalità specifica, sì, autorizzata dall'INPS. Ma anche non può essere diviso tra me lavoratore e un'altra persona lavoratore per assistere la stessa soggetto. Ah, ecco, quindi per esempio io e mio fratello abbiamo bisogno di assistere il papà malato, non è che la 104 la utilizzo io e contemporaneamente mio fratello chiede dal suo posto di lavoro di fruire dei permessi della 104, perché eccola. Esatto, c'è una deroga soltanto in alcuni casi che riguarda i genitori, certo, ecco, che in quel caso li possono alternativamente fruirne, ma è una deroga particolare. Infatti Nicoletta mi dice che su WhatsApp c'era proprio una domanda, sì. Siamo 4 fratelli, lavoriamo tutti nel privato, certo, nostra mamma è disabile da poco tempo, ognuno certo di noi può accedere alla legge 104, solamente uno dei quattro. Esatto. Allora, il datore di lavoro, Rotaporta, che ruolo ha in tutto questo? Una volta che l'INPS ha autorizzato, il datore di lavoro deve naturalmente accettare l'allontanamento temporaneo per questi 3 giorni del proprio lavoratore, appunto, per fruire di questi permessi, si può opporre, può fare delle verifiche, qual è la situazione? Ma per quanto concerne la gestione operativa, quindi proprio il godimento di questi permessi, il datore di lavoro non si può opporre. Qui c'è stato un po' di tempo fa il Ministero che ha chiarito un attimino le modalità di utilizzo e quindi come funziona, che il datore di lavoro può anche richiedere al lavoratore interessato, fruitore dei permessi, di, diciamo, compatibilmente con la sua necessità di assistenza, di andare a programmare preventivamente le giornate o le ore di assenza in modo da poter organizzare, certo, anche l'attività lavorativa. Però questa iniziativa del datore di lavoro non deve mai compromettere il diritto di poter prestare questa assistenza e quindi deve seguire criteri il più possibile condivisi con il lavoratore o con le rappresentanze sindacali. Quindi diciamo che il datore di lavoro può andare a chiedere una programmazione, ma ovviamente rispettando sempre il diritto del lavoratore. In tema di controlli invece sull'effettiva... Esatto, la visita fiscale in questo caso è contemplata? No, la visita fiscale non è contemplata, quindi non è possibile ricorrere a un sistema, diciamo, pubblico di controlli, quindi il datore di lavoro privato non si può rivolgere all'INPS per effettuare controlli in questo senso. Diciamo che se lo fa diciamo di sua iniziativa, ma qui la giurisprudenza è un po' segue criteri un po' non uniformi, ci sono sentenze che danno ragione al datore di lavoro che ha effettuato il controllo e quindi sorprendendo il lavoratore che anziché godere dei permessi per l'assistenza faceva altro. D'altronde se siamo tornati a parlare di questa storia degli abusi, evidentemente pure qualche datore di lavoro avrà le sue ragioni nel voler avventurarsi sul terreno dei controlli. Vabbè, qua noi siamo sempre garantisti, ovviamente, con Nicoletta, per carità del cielo. Quando ci sono le malattie in casa, nessuno vuole assolutamente giudicare quello che succede all'interno dei nuclei familiari, però insomma, di fronte a certe percentuali che vengono denunciate qua, o c'è qualcuno che rilascia delle autorizzazioni troppo allegramente oppure, ma è anche vero insomma che qualche volta ci si trova in condizioni di difficoltà, che se questa è l'unica norma che ti può dare una mano a gestire serenamente dei momenti di difficoltà, appunto come quelli che si possono verificare, è chiaro che una persona ne approfitta quanto più possibile. Poi però ecco che le percentuali parlano chiaro. La rota porta. Ma sì, ricordiamo che attività o comunque comportamenti che siano accessori da parte del lavoratore che gode dei permessi, ad esempio, non so, il fatto di andare a prenotare una visita per il parente disabile, e questo ci sta, nel senso che è consentito. È logico che se uno va, come è successo in alcuni casi, come trattati dalla giurisprudenza, a farsi il viaggio con gli amici, è logico che siamo nel pieno campo degli abusi. Infatti, senta, sulla busta paga c'è un effetto dalla fruizione di questi 3 giorni di permesso mensili? L'indennità è a carico dell'INPS, quindi il datore di lavoro anticipa in busta paga il trattamento, che è pari al 100% della retribuzione, e poi se lo va a scontare dalla contribuzione che deve all'INPS attraverso il conguaglio mensile dei contributi. Quindi il lavoratore sicuramente vede evidenziati la fruizione di questi permessi, però senza avere nessun danno, nessuno svantaggio in termini di retribuzione. Certo. Senta, si parla di revisione normativa sui preavvisi per fruire dei permessi della 104, di che cosa si sta discutendo? Che tipo di cambiamenti potrebbero subentrare? Ma qui il presidente Boeri, come avevate citato voi prima, ha fatto questa dichiarazione che evidentemente mira, non si sa ancora in che termini, perché appunto di dichiarazione si tratta, di probabilmente attuare una stretta sia nei meccanismi di concessione e magari negli strumenti di controllo. Io immagino che forse l'intenzione, almeno nelle parole, fosse quella. Lo vedremo, solo vivendo, come direbbe Lucio Battisti. Allora, abbiamo un paio di domande di 2 ascoltatori. Morena da Firenze all'800240024. Morena, benvenuta. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi state offrendo. Eccoci a lei. Allora, il mio problema è questo. Io ho un padre disabile al 100% in seguito ad un ictus, ha un'emiparesi con tutte le problematiche. Certo. Immaginiamo, Morena. È anche titolare di una della legge 104, che però è intestata, diciamo così, a mio fratello, il quale però non è assolutamente disponibile per quanto riguarda le necessità di mio padre. Mi sono un po' informata per sapere come fare per venire intestata io a questa legge, e mi si dice che soltanto è soltanto mio fratello che me la può cedere. Certo. Io però, allora, Morena, come mai inizialmente avete deciso di far prendere a lui questi permessi se poi non aveva... Perché finché è stata in vita mia madre, anche lei disabile al 100%, ero io intestataria per la legge 104 di mia quindi madre. Per... deceduta mia madre... Chiarissimo, abbiamo capito. Morena, grazie. Alessandro Taporta, allora, il titolare dei 3 giorni di permesso mensili riconosciuti dalla 104 è il fratello di Morena, però in questo caso questa persona non fa il suo dovere, da quello che abbiamo capito. Naturalmente Morena vorrebbe riprendersi questi 3 giorni, è chiaro che deve essere autorizzata, immagino, dal diretto interessato. Sì, perché lì comunque bisogna fare una pratica di, diciamo, di, cioè il trasferimento è possibile, nel senso che... Però ci deve essere consenso. Sì, deve esserci il consenso, cioè, perché effettivamente va comunicato all'INPS, perché è una variazione di quella concessione, e quindi devono essere d'accordo ovviamente al trasferimento della titolarità dei permessi. Infatti, quindi qua bisogna mettersi attorno ad un tavolo e discutere con serenità di questa vicenda. C'è un ascoltatore che scrive... ma si può prendere anche un anno intero? Beh, qui entriamo nel campo delle aspettative dal lavoro per tutta una serie di circostanze straordinarie, Rotaporta, che credo nulla abbiano a che fare con la legge 104. Ci sono altri tipi di congedo, e lì il riferimento è il decreto legislativo 151 del 2001, che danno in determinate casistiche la possibilità di avere un congedo straordinario retribuito per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, e qui però sono particolari condizioni, certo. Quindi bisogna entrare poi nei dettagli. Esattamente, insomma, se avete bisogno scriveteci a cuoredenari@radio24.it quantomeno qualche riferimento di legge, siamo in grado di potervelo fornire. C'è Marina da Frosinone che saluta. Salutiamo, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Allora, io volevo proprio fare una domanda sul congedo straordinario di questi 2 anni, una volta nella vita. Io ho usufruito di questo congedo, sono insegnante, ho usufruito di questo congedo straordinario 6 anni fa per mia mamma, e ho utilizzato 6 mesi di questi 2 anni. Adesso purtroppo ho di nuovo questo un'altra necessità, questo, certo. Sì, però è riferita a mio figlio minore. Uh-huh. E adesso quindi la mia domanda è questa: io adesso ho chiesto 1 mese, però volevo capire se questo mese andava a, diciamo, a sommarsi a quei 6 che avevo utilizzato, oppure se invece si riazzera tutto. Esatto, se è riferita al lavoratore oppure alla persona invece che è titolare. Grazie Marina, abbiamo capito. Rotaporta, anche qui siamo a metà tra la 104 e il congedo straordinario che aveva citato anche prima. Riusciamo a dare una risposta a Marina o ha bisogno di qualche informazione in più? No, perché comunque sia l'INPS ha chiarito che, diciamo, i 2 anni sono in capo al lavoratore che usufruisce. Esatto, e non sono diciamo ripetibili a seconda dei familiari assistiti, quindi sono 2 anni in tutto. Chiarissimo Marina, speriamo di esserle stati ugualmente utili. Ce la faccio a sentire Lidia da Treviso velocemente, grazie Lidia. I permessi per i bambini li facciamo dopo, certo. Nicoletto, li anticipiamo adesso. Dopo. Sì, pronto. Allora, io avevo un quesito. La legge 104 è usufruibile anche dalla persona che lavora ma portatrice di handicap, sì, certo, di un'invalidità? Lidia. Ce l'ha detto prima Alessandro Rotaporta. Sì, Rotaporta, vero? Volevo esserne certa. Benissimo, grazie. E a chi ci si rivolge per la domanda? Grazie Lidia. Beh, credo che l'INPS sia l'interlocutore naturale, no? Alessandro Rotaporta. Sì, l'abbiamo accennato prima, quindi i destinatari possono essere sia gli familiari che assistono la persona disabile, ma anche lo stesso portatore di handicap che lavora. Certo. Quindi il permesso è esteso anche a questi soggetti con lo stesso iter che abbiamo descritto prima, quindi valutazione medica della commissione ASL e autorizzazione dell'INPS. Tra l'altro Lidia ci indicava anche la percentuale di invalidità del portatore di handicap, non so se su questo la legge dà delle precisazioni che vale la pena trasferire Rotaporta. No, deve essere accertato lo stato di handicap, esatto. Al di là della percentuale. Infatti, grazie. Allora, adesso ci fermiamo, lo rimandiamo solo di qualche minuto perché vogliamo chiedere all'avvocato Rotaporta che cosa può fare il lavoratore per assentarsi dal lavoro in caso di malattia dei bambini, perché poi proprio di bambini alle prese con le malattie del raffreddamento parleremo con il nostro pediatra. Quindi informazione alla cuore e denari, come sempre. Intanto adesso anche un'occhiatina alla borsa, perché certo, non è che ci vuole. La possiamo mica lasciarla. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci qua, siamo tornate insieme le amiche del mattino, 800 24 00 24. È rimasto con noi anche un amico di Cuore e Denari, l'avvocato Rotaporta, che abbiamo promosso sul campo, sì, avvocato. Mi scusi, dottor... Ma magari vuole perché... fare l'esame e noi non lo sappiamo. Sei troppo buone, troppo buone. Vabbè, allora, comunque, l'esperto di Deborah e di Nicoletta, no, infatti, ecco, e non solo, un amico, per rispondere a una domanda della donna di cuore. Il lavoratore può assentarsi dal lavoro anche in caso di malattia del proprio bambino, del figlio. Parliamo naturalmente non di situazioni gravi che possono essere contemplate, come abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, immagino dalla 104, ma del mal di pancia improvviso, della febbre, dell'influenzina che può venire al nostro bambino, la varicellina che spunta da un momento all'altro, sì, esatto, o una malattia esantematica. Allora, in questo caso, qual è la certificazione che il genitore deve portare? Boeri prevede controlli anche più severi per questi casi? Ma allora, di questo nelle dichiarazioni del presidente Boeri non se n'è parlato. La certificazione della malattia del bambino deve essere attestata dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono poi due tipologie di permessi. La prima, che concede sostanzialmente permessi limitati alternativamente a entrambi i genitori per le malattie del figlio che non abbia superato i 3 anni di età. E poi c'è un'altra casistica che invece riguarda i bambini che sono di età compresa fra i 3 e gli 8 anni. Qui il diritto ad astenersi dal lavoro, quindi a godere di questi permessi, è limitato a 5 giorni lavorativi all'anno, quindi sono queste due fattispecie. 5 giorni per il papà, 5 giorni per la mamma, questo va detto. No, 5 no. giorni in tutto, quindi alternativamente due il padre e due o la e madre... Mezzo. Esatto, possono godere di questi 5 giorni da suddividere tra loro, quindi può offrirne o tutti uno o tutti l'altro, oppure se li dividono. Allora, intanto continuano ad arrivare richieste per il nostro esperto, anche via WhatsApp, il 349-238-6666, anche richieste di genitori, naturalmente, e Deborah, come sempre, invitiamo i nostri ascoltatori. Apriamo la serranda del pomeriggio. Certo, facciamo lavorare i nostri esperti anche al pomeriggio, continuate a scriverci, mandateci un'email a cuoredenari@radio24.it. Grazie Alessandro Rotaporta. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Allora, il freddo non c'entra, ma tant'è che quando fa freddo i bambini si ammalano di più. Inizia il naso chiuso e colante, poi arriva discrezione e il mal di gola, poi un po' di febbre, che a volte è un febbrone, così, tanto per gradire, e per non farci mancare nulla, raucedine, occhi rossi e ciliegina sulla torta, la tosse. Chi ha figli piccoli conosce bene la situazione, piccoli direi in età prescolare, il freddo lo sappiamo bene non c'entra, ma tant'è che in questa stagione è facile che il bambino si ammali. Allora noi vogliamo parlare con il nostro pediatra di fiducia, il professor Luca Bernardo, che è in linea con noi, direttore del reparto di pediatria del Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Allora, non c'entra il freddo, così tranquillizziamo anche l'ascoltatore che ci ha mandato subito un messaggio. Mi raccomando, non date la colpa al freddo anche voi. No, non c'entra il freddo. Dico di più, né il colpo di vento, né la sudata, né l'aver camminato a piedi nudi o essere usciti vestiti troppo leggeri. La colpa, se di colpa vogliamo parlare, è dei virus che per i nostri bambini sembrano avere un'attrazione particolare. Tra l'altro, i virus influenzali si diffondono facilmente con starnuti, colpi di tosse, sopravvivono soprattutto indisturbati su oggetti, i giocattoli dei nostri bambini, ma anche sulle maniglie, sulle sulpellettili. Professor Bernardo, che fare? Sì, intanto diciamo che non esistono più le stagioni e questo è il primo grande problema. E proprio per questo quelli che sono i virus e i batteri che hanno avuto normalmente un tipo di habitat, oggi lo trovano molto più favorevole che sono i nostri bambini e purtroppo i nostri anziani. Ricordiamo però che la tosse è anche un meccanismo di difesa e di protezione, perché grazie a questo riflesso, anche a volte particolarmente violento, agenti esterni e batteri potenzialmente infiammanti, infettanti, possono essere espulsi all'esterno, giusto per, in prima battuta, quelli che possono intaccare bronchi e polmoni. Cosa fare? Corretta vita, che vuol dire non sedentaria, ma una vita anche sportiva, anche in termini ludici per bambini così piccoli, corretta nutrizione, lavarsi sempre correttamente le mani prima e dopo. Ecco, il lavaggio delle mani è molto importante, sembra così semplice, però si parte proprio, vero, è dall'ABC. Ma professore, ci sono dei bambini che escono da un'influenza e entrano in un'altra. Come mai alcuni bambini sembrano essere così fragili? Si può fare qualcosa? Sbagliamo qualcosa? Allora, innanzitutto la tosse e le infezioni respiratorie si passa attraverso quelle goccioline di saliva che si emettono parlando o tossendo, e quindi non mettendo, per esempio, banalmente la mano davanti alla bocca, sì, o stando all'interno di quelli che sono circa mezzo metro di distanza l'uno dall'altro quando uno tossisce. Ricordiamo che c'è e ci sono bambini che sono ovviamente colpiti da patologie, quindi possono essere allergici, possono essere affetti da reflusso, possono avere per esempio un germe che si chiama micoplasma, che troviamo spesso in questo periodo, che si posiziona a livello bronchiale, piuttosto lo streptococco. Quindi qualcosa che va comunque eradicato con delle terapie. L'importante è non fare quelle inutili o dannose. Le leggo, esatto, subito un WhatsApp di una mamma, di una nonna, che dice: i bambini si ammalano più spesso perché le mamme e i genitori in genere, ci scrive, non fanno più fare la convalescenza. Professor Bernardo, i bambini si ammalano e poi si portano subito al nido o all'asilo. Forse questa nonna ha ragione, oppure... In parte sì, nel senso che è fondamentale sempre sapere, soprattutto se di fronte a un bambino con febbre, che non deve andare e frequentare la comunità prima di 48 ore dalla scomparsa della febbre senza l'utilizzo di antipiretici. Quindi non dobbiamo mettere il farmaco per abbassare la febbre e deve stare 48 ore sfebbrato. Quindi esatto, quella che un tempo veniva chiamata convalescenza. Sì, esatto. Ecco. Allora, professore, lei ha parlato di tosse. Spesso i genitori chiedono o cercano di utilizzare un farmaco fluidificante o mucolitico, pensando così di eliminare il problema. Bene o male? Spesso male, nel senso che soprattutto i bambini piccoli hanno questa difficoltà ovviamente a usare il fazzoletto e quindi riuscire a far uscire il catarro dal naso a seguito insomma di uno stimolo meccanico. Quindi il fluidificante poco ci serve. In realtà sarebbe molto più importante e fondamentale intanto la temperatura a casa, che non deve essere mai troppo caldo o troppo secco. Qual è lavaggi nasali? Sì, lavaggi nasali arriviamo, ma la temperatura qual è quella che è suggerita? Io direi che di notte, quando siamo a 20-21, è più che sufficiente. E a volte troviamo 23-24, è oggettivamente eccessiva. Umidificare l'aria, l'ambiente, professor Bernardo, come possiamo sapere di farlo in modo corretto, adeguato per il nostro bambino? Ci sono due metodi, quello un po' più naturale, quindi chi ha i caloriferi esterni diciamo sul muro, con le stanze molto calde, si possono usare ancora quei pentolini o quegli ausili che, mettendo dentro dell'acqua assolutamente da rubinetto, evaporando, danno comunque un minimo di umidità corretta per l'idratazione. In realtà la cosa migliore sarebbe l'umidificatore, dove però sconsiglio di mettere tante cose all'interno oltre che la conduzione fisiologica. Io battuto dico sempre che quello che si mette in più fa più bene a chi lo vende che non a chi lo compra. Allora un ascoltatore ci scrive: i bambini si ammalano perché, professor Bernardo, noi diciamo la nostra e noi siamo molto contenti che i nostri ascoltatori partecipino, possono farlo anche al numero verde 800 24 00 24. I bambini si ammalano perché sono troppo coperti di vestiti, arieggiate le stanze, sì, e abbassare il riscaldamento, è d'accordo? Assolutamente su tutto, nel senso che, come dicevo, una stanza calda può produrre ovviamente un habitat naturale non tanto per i bambini ma per i germi. Il fatto anche che si immagina sempre, ma lo dico anche nei neonati e nei lattanti appena nati, alcuni bambini o mamme che vengono portati anche in montagna e mettono 3 maglioni, 4 tute, ecco, basta intanto sulla pelle mettere sempre il cotone e poi eventualmente si sovracopre, ma il sovracoprire la copertura tanto quanto gli adulti, perché sentono indicativamente lo stesso freddo, lo stesso caldo. Quindi non sovraccoprire, perché se no sudano più facilmente e il sudore si bagnano e quindi può creare qualche problema. Professor Bernardo, un'altra domanda che arriva dai nostri ascoltatori: quando il bambino ha la febbre o comunque ha l'influenza, si può fare il bagno come quando sta bene, oppure bisogna evitare di fargli prendere freddo magari con il bagnetto? No, diciamo che la cosa migliore è tenerlo sempre protetto e al caldo, quindi sotto le coperte, compatibilmente che la febbre non sia elevata. Ricordiamo che sotto i 38 non si ha necessità di usare un antipiretico. Sopra i 38, quindi una febbre se 38 è superiore ai 38, si utilizza un antipiretico. Sopra i 39 si inizia a spogliare il bambino per raffreddarlo insieme a quello che è l'antipiretico. Il bagnetto può essere nel caso utilizzato in aiuto e coadiuvato con l'antipiretico, un bagnetto fresco, non freddo, sì, non gelato, per ridurre la temperatura. Allora, Ornella ci chiama da Ravenna, all'800240024, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere al pediatra, siccome ho un nipotino di 20 mesi e andando all'asilo ogni tanto gli viene la tosse, la sua pediatra ha detto assolutamente che non va bene fare l'aerosol, perché sono così piccoli, non riescono ad espellere il catarro e quindi alla fine dice si ferma lì e quindi fa più male che bene. Io non so, ho avuto altri due nipoti più grandi e li abbiamo sempre fatto l'aerosol. Volevo anche un suo parere. Grazie a questa domanda d'Ornella, che racconta quanto poi nel tempo cambino le posizioni, professor Bernardo. No, in realtà noi l'aerosol lo utilizziamo proprio in acuto, quindi sia per bambini piccoli che anche più grandi l'aerosol è quello che meglio funziona. Quindi ha provato l'aerosol? Io provo l'aerosol invece rispetto alla collega, che avrà sicuramente le sue motivazioni. Però assolutamente l'aerosol in acuto è quello che funziona realmente meglio, accompagnato alla lavaggi nasali, accompagnato dalla corretta temperatura e anche dalla posizione del dormire. Professor Bernardo, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a tutti voi, sono ascoltatrici e ascoltatori. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme. Oggi è la giornata mondiale dell'epilessia, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Buongiorno, mi chiamo Silvia e sono una ragazza di 30 anni. Vi scrivo perché oggi per me è un giorno importante. È la giornata mondiale dell'epilessia e io ho questa malattia da quando ero bambina. Fortunatamente con i farmaci la mia vita è molto migliorata. Ma volevo chiedere di parlare di questa malattia che nonostante tutto ancora oggi fa paura. Magari con il vostro aiuto riusciremo ad andare oltre i pregiudizi. Grazie mille. E siamo noi che ringraziamo Silvia, che con la sua lettera ci invita a trattare un argomento che ci sta a cuore. Le persone affette da epilessia ancora oggi sono vittime di pregiudizi e limitazioni in vari ambiti della loro esistenza. Eppure le persone con epilessia possono condurre una vita regolare, quindi nella società, a scuola, al lavoro, nel tempo libero. Ne parliamo oggi col dottor Nicola Specchio, responsabile di neurochirurgia dell'epilessia del Bambino Gesù di Roma. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Per essere con noi. Buongiorno, è un molto piacere. Buongiorno Nicoletta. Allora, dottore, intanto ci aiuti a capire, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché è l'informazione che in qualche modo aiuta a mettere in discussione, a eliminare tanti pregiudizi. Che cos'è l'epilessia? L'epilessia è una condizione che tende a persistere nel tempo, la quale è causata da una iperccitabilità delle cellule del cervello, ovvero le cellule tendono ad avere una intensificazione della loro attività e quindi si determinano improvvisamente dei momenti di blackout. Ecco, delle crisi epilettiche. Delle crisi appunto epilettiche. Poi parleremo anche della vostra bella iniziativa che state organizzando proprio in occasione della giornata mondiale. Che cosa non è l'epilessia invece, dottore? Perché ci sono, come Silvia ha sottolineato, tanti pregiudizi, luoghi comuni che vanno assolutamente affrontati e superati. Sì, questo è molto attuale e molto interessante, nel senso che l'epilessia non è esclusione, l'epilessia non è stigma. L'epilessia non è nulla che possa, come dire, interferire la sì. vita, ecco, ecco esattamente questo, alterare ed interferire con la normale quotidianità e la normale vita. Questo se non altro nella maggior parte delle situazioni che ci troviamo a dover trattare. Colpisce mediamente l'1% della popolazione e si manifesta con crisi di vario tipo nei primi anni di vita, entro i 12 anni il 70% dei casi. Esattamente. Ecco, dottore, rivolgiamoci ai genitori che hanno ricevuto una diagnosi. Sì. Per il loro bambino. Certamente. Per mandare un messaggio di anche di speranza, perché può essere trattata, ci sono dei farmaci, ci sono in alcuni casi selezionati degli interventi, ne eseguite molto e anche con grande successo all'ospedale dove lei lavora, ci sono anche delle terapie alternative, tipo, come ad esempio una dieta particolare. Quindi la ricerca è andata avanti e possiamo mandare un messaggio assolutamente di tranquillità. Dottore. Assolutamente sì, il messaggio è state tranquilli, l'epilessia nel 70% dei casi è una condizione curabile molto molto semplicemente e si può assolutamente conviverci senza nessun problema. In quei casi in cui le crisi sono un po' più dure da mandar via, nel senso che i farmaci ci aiutano fino a un certo punto, abbiamo tante altre possibilità, come appunto te dicevi. La possibilità, la dieta chetogena è una delle nuove alternative terapeutiche, quindi un regime dietetico specifico fatto caratterizzato, bilanciato sì. verso appunto un'assunzione maggiore di grassi. Ovviamente questo va fatto nei centri epilessia che se ne occupano, non è una iniziativa dei genitori, esattamente, certo. Non è un'alimentazione che si può, diciamo, organizzare in modo indipendente. Esistono altre alternative come la neuromodulazione ed esiste la chirurgia dell'epilessia che ci consente di trattare quei casi più difficili, quei casi più resistenti alla terapia e di trattarli con successo. Questo significa, con che percentuale di successo, dottor Specchia? Direi che il 60%, 65% dei pazienti trattati con la chirurgia dell'epilessia va in remissione, significa che le crisi non si presentano più, significa che siamo in grado di togliere i farmaci antiepilettici, quindi un assoluto successo terapeutico per questi bambini. Quindi il messaggio è... andiamo fuori dall'ombra, trattiamo i nostri bimbi, trattiamoli con le tecnologie avanzate e con sulla base della ricerca scientifica che negli ultimi anni ha fatto tanti passi avanti, sia in termini di terapia che in termini di appropriatezza della diagnosi. Dottore, vorrei parlare anche della bella iniziativa che organizzate oggi presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. È l'obiettivo proprio di superare i pregiudizi, di fare informazioni, di insegnare a tutti, in particolare nel vostro incontro agli operatori scolastici, a gestire una crisi convulsiva in classe. L'incontro si chiama La scuola non ha paura delle crisi. Esatto. Mi sembra un progetto bellissimo, perché la crisi fa ancora molta paura, spesso non si sa come gestirla e immagino faccia anche paura agli insegnanti, che per questo vanno informati ed educati anche per raccontare la crisi ai compagni del bambino, che non devono accoglierlo e non escluderlo. Certamente, questo è di fondamentale importanza. Il progetto è al suo secondo anno, alla sua seconda edizione, in occasione della giornata mondiale contro l'epilessia, e l'obiettivo principale è liberare i ragazzi dallo stigma dell'epilessia, da un lato, e dall'altro istruire gli insegnanti e il personale scolastico a gestire le crisi nell'ambito scolastico, nelle ore della didattica. Non vogliamo che i nostri ragazzi siano esclusi dall'attività didattica, non vogliamo che i nostri ragazzi siano esclusi dalle attività di tipo ludico-didattico, e questo è qualcosa che invece tuttora accade frequentemente, ma possiamo limitare tutto questo, possiamo insegnare scusi, ai professori. Sì, e quindi anche ai ragazzi e ai compagni. Anche ai ragazzi e ai compagni, quali sono le metodologie per trattare la crisi qualora essa stessa si presenti? E soprattutto i ragazzi devono conoscere questa condizione, perché non devono isolare i loro compagni affetti da questa malattia. Allora, tra l'altro, in occasione della giornata, la Torre di Pisa, la Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma, il Maschio Angioino di Napoli, la Basilica di San Bernardino dell'Aquila, la Fontana Monumentale di Bari e molti altri monumenti d'Italia si illumineranno di viola, che è colore simbolo, vero dottore, dell'epilessia? Esatto, è il colore simbolo dell'epilessia, il colore simbolo internazionale dell'epilessia. Tutti questi monumenti saranno illuminati, e questo per ricordare che questa malattia esiste, per ricordare che esistono tante persone affette da questa malattia, per uscire fuori dall'ombra. Questo è un'attività che ha cura della Lega Italiana contro l'epilessia, noi facciamo parte, LICE appunto. LICE, società scientifica che raggruppa i medici di branca neurologica che si occupano proprio di questa malattia, e possiamo dare anche il riferimento dell'AICE, l'Associazione Italiana contro l'epilessia, l'Associazione dei pazienti e delle loro famiglie. Esatto, e della Fondazione Italiana Epilessia, che è un'altra associazione importante di pazienti, quindi sono molto forti queste associazioni di pazienti, supportano il nostro lavoro e supportano appunto l'obiettivo di venire fuori dall'ombra, uscire allo scoperto e raccontarsi, raccontare delle crisi, raccontare della vita con le crisi, che alla fine non deve essere differente. Grazie, grazie al dottor Nicola Specchio per la chiarezza, grazie per il vostro impegno. Se avete bisogno, volete saperne di più, vi mettiamo naturalmente il link all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, alla LICE e all'AICE e alla Fondazione, ma comunque scrivete. Adesso però passo la parola a Deborah prima di chiudere, sì, perché voleva fare una precisazione. Esatto, per naturalmente dovere di cronaca, ce ne siamo accorti subito con Alessandro Rottaporta, l'ho fatto proprio puntualizzare sul numero di giorni che ogni genitore può prendere per assistere i figli appunto in malattia normale, quindi dalla febbre, quella che dicevamo prima, la tosse, sì, non le situazioni gravi. Ecco, dai 3 agli 8 anni l'assenza è riconosciuta, dicevamo, fino ad un massimo di 5 giorni l'anno. Chiesta ad Alessandro Rottaporta, 5 giorni per papà, 5 giorni per mamma, lui mi diceva no, 5 giorni complessivi, ma in realtà ci è venuto il dubbio non appena l'abbiamo detto, abbiamo ricontrollato proprio negli ultimi minuti, in realtà avevamo ragione nel dire che sono 5 per papà, 5 per la mamma, se sono naturalmente lavoratori dipendenti, quindi l'assenza complessiva dei 2 sale a 10 giorni complessivi. Un'altra cosa che volevo precisare, Nicoletta, è che qua qualcuno ha capito che noi, per chi fruisce della legge 104, abbiamo dato dei furbi, degli approfittatori. Non mi sembra proprio di aver posto il dibattito in questa maniera. Vabbè, detto ciò, abbiamo spiegato, penso proprio con molta serenità, come funzionano. C'è il podcast, magari, esatto. Ci sono dei temi che toccano in modo particolare la sensibilità di alcuni. Se l'abbiamo fatto, ci scusiamo. Esatto, ma gli abusi ci sono in tutte le situazioni, per cui anche in questo campo. Il nostro intento era purtroppo di fare chiarezza, di renderci più consapevoli. Bene. Noi vi aspettiamo domani. San Valentino. Noi 2 innamorate naturalmente torneremo. Ci saremo. Esatto. Con noi anche Carmelo, perché non vuole mai lasciarci. No, guarda, proprio sempre lì ci sta super appiccicato, così come ci stanno appiccicati Marco Lombardo e Laura Vanossi, e noi ci riteniamo appiccicati molto volentieri. Adesso però andiamo, vi salutiamo. Buona giornata. Torniamo domani. Domani.